Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Abbiamo lasciato nella scorsa puntata Pierre in mezzo alle operazioni militari, nel corso delle quali abbiamo anche visto come Nikolaj Rostov incontra la principessina Maria e di come nasca un'improvvisa, imprevista e imprevedibile simpatia e attrazione tra i due. Intanto la guerra è in pieno svolgimento e Napoleone sta puntando su Mosca. Pierre si reca nel bel mezzo delle operazioni di guerra. Vuole vedere da vicino ciò che sta succedendo. Una palla di cannone gli esplode accanto e lo scaraventa a terra. Pierre, stordito dalla paura, balzò su e si mise a correre indietro verso la batteria, come verso il suo unico rifugio da tutti gli orrori che lo circondavano. Notò che nella batteria non si udivano più colpi, ma della gente stava là e faceva qualche cosa. Pierre non riuscì a capire chi fossero quegli uomini. Vide il colonnello anziano allungato sul bastione, con la schiena volta verso di lui, come se guardasse qualche cosa in giù, e vide un soldato già da lui notato che tentava di liberarsi dalla gente che lo tenevano per un braccio e gridava «Fratelli! Fratelli!» e vide qualcos'altro di strano. Ma non ebbe il tempo di capire che il colonnello era morto, che il soldato che gridava «Fratelli!» era prigioniero e che sotto i suoi occhi un altro soldato era stato ucciso con una baionettata nella schiena. Era appena entrato nel recinto trincerato che un uomo magro, giallo, col viso sudato, in uniforme turchina e con la sciabola in mano, gli corse addosso gridando qualcosa. Pierre tese innanzi le braccia e afferrò quell'uomo. Era un ufficiale francese, mettendogli una mano sulla spalla e l'altra alla gola. L'ufficiale, abbassando la sciabola, afferrò Pierre per la collottola. Per alcuni istanti si guardarono tutti e due in viso con occhi spaventati e furono sorpresi di quel che avevano fatto e incerti su quel che dovessero fare. «Sono io che ho fatto prigioniero lui o è lui che ha fatto prigioniero me?» pensava ciascuno di loro. Ma evidentemente l'ufficiale francese inclinava piuttosto verso l'idea di essere lui il prigioniero, perché la robusta mano di Pierre, mossa da una involontaria paura, gli stringeva la gola sempre più fortemente. Il francese voleva dire qualche cosa, quando ad un tratto proprio sulla loro testa passò una palla con un fischio tremendo, e a Pierre parve che la testa dell'ufficiale francese fosse portata via, tanto in fretta egli la abbassò. Anche Pierre chinò il capo e abbassò le braccia. Non pensando più a chi avesse preso prigioniero l'altro, il francese si mise a correre indietro, verso la batteria, e Pierre scese dall'altura, inciampando nei morti e nei feriti che gli pareva che lo afferrassero per le gambe. Ma non era ancora giunto al basso che gli vennero incontro delle masse compatte di soldati russi che pareva fuggissero e che, cadendo, incespicando e gridando, correvano allegramente e tumultuosamente verso la batteria. Masse di feriti che Pierre conosceva e non conosceva, russi e francesi, coi visi sfigurati dalle sofferenze, camminavano, si trascinavano, erano portati sulle barelle fuori dalla batteria. Il sole, offuscato dal fumo, era ancora alto. E davanti qualcosa ribolliva nel fumo, e il rombo degli spari di fucile e di cannone non soltanto non si indeboliva, ma si faceva disperatamente più forte, come un uomo che, affranto, urla con le sue ultime forze. Il reggimento del principe Andrei, che già aveva perduto più di 200 uomini, fu spostato in avanti su di un campo di avena calpestato, dove quel giorno erano stati uccisi migliaia di uomini, e dove verso le due era diretto un fuoco intenso e concentrato di parecchie centinaia di pezzi nemici. Senza muoversi da quel posto e senza aver tirato nemmeno un colpo, il reggimento perdette lì ancora la terza parte dei suoi uomini. I cannoni tuonavano in mezzo al fumo che non si dissipava, e da quella misteriosa zona di fumo che copriva tutto il terreno antistante volavano senza posa le palle con un rapido fischio e le granate con un lento sibilo. Ad ogni nuovo colpo sempre minori probabilità di vita rimanevano per quelli che non erano ancora stati uccisi. Tutti gli uomini del reggimento erano ugualmente taciturni e cupi. Di rado si udiva qualche scambio di parole tra le file, ma anche quello taceva ogni volta che si udiva un nuovo colpo e il grido «Barella!». Il principe Andrei, al pari di tutti gli uomini del suo reggimento, accigliato e pallido, passeggiava in su e giù per il prato costeggiante il campo di avena, da un limite all'altro, con le mani dietro la schiena e il capo basso. Non c'era nulla da fare e nessun ordine da dare. Tutto si faceva da sé. Da principio il principe Andrei, ritenendo che fosse suo dovere risvegliare il coraggio dei soldati e dare loro l'esempio, camminava fra le file, ma poi si persuase che non aveva nessun modo di insegnare nulla a nessuno. Tutte le forze del suo animo, come di quello di ciascun soldato, erano inconsciamente rivolte a trattenersi dal contemplare l'orribile situazione nella quale si trovavano. Egli non pensava a nulla. Ascoltava con orecchio stanco sempre i medesimi suoni, distinguendo il fischio delle palle dal rombo degli spari, guardava i visi già tante volte veduti del primo battaglione e aspettava. E si metteva di nuovo a camminare, sforzandosi di fare i passi lunghi per poter arrivare al limite del prato in 16 passi, un fischio e un colpo. A 5 passi da lui, una palla sconvolse la terra asciutta e scomparve. Un involontario brivido gli corse per la schiena. «Possibile che sia la morte», pensava il principe Andrei, guardando con uno sguardo assolutamente nuovo e invidioso l'erba, l'assenzio e il filo di fumo uscente dalla palla nera che girava ancora. «Io non posso, non voglio morire. Amo la vita, amo quest'erba, la terra, l'aria». Nello stesso momento si udì uno schianto, un tintinnio come di vetri infranti, un odore soffocante di polvere, e il principe Andrei fu scaraventato da una parte e, alzando le braccia, cadde bocconi. Alcuni ufficiali corsero a lui. Dalla parte destra del ventre colava il sangue, formando una grande macchia sull'erba. I militi, chiamati, si fermarono con la barella dietro agli ufficiali. Il principe Andrei, col viso affondato nell'erba, respirava con un rantolo affannoso. Gli uomini si avvicinarono e lo presero per le spalle e per i piedi, ma egli gemette penosamente, e gli uomini, scambiatisi uno sguardo, lo posarono di nuovo a terra. «Via, prendetelo, tanto è lo stesso!» gridò una voce. Lo presero di nuovo per le spalle e lo deposero sulla barella. «Ah, Dio mio, che è? Al ventre! È la fine! Ah, Dio mio!» si udivano voci fra gli ufficiali. Il principe Andrei aprì gli occhi e guardò dalla barella, nella quale la sua testa era sprofondata, verso colui che parlava, e di nuovo abbassò le palpebre. Portarono il principe Andrei nella foresta, dove stavano i furgoni e dove c'era un posto di medicazione. Il principe Andrei aprì gli occhi, ma per un pezzo non poté capire ciò che accadeva intorno a lui. Ricordò il prato, il cespo di assenzio, i campi, la palla nera che girava e il suo appassionato impeto di amore alla vita. «Ma non è forse tutto uguale ora?» pensava. «Che accadrà laggiù? E che cosa è accaduto qui? Perché mi rincresce tanto staccarmi dalla vita? C'era qualcosa in questa vita che non capivo e non capisco». I gemiti lamentosi che venivano da varie parti, il tormentoso dolore alla coscia, al ventre e alla schiena lo distraevano. E tutto quel che vedeva intorno a sé gli si confondeva nell'impressione generale di un corpo umano nudo insanguinato, che sembrava empire tutta quella tenda bassa, come alcune settimane prima, in una calda giornata di agosto, quel medesimo corpo empiva lo stagno fangoso sulla strada di Smolensk. Sì, era quello stesso corpo, quella carne da cannone, la cui vista già allora, come un presagio di quel che provava adesso, gli aveva fatto orrore. Nella tenda c'erano 3 tavole. 2 erano occupate. Sulla terza avevano deposto il principe Andrei. Lo lasciarono solo per un certo tempo e involontariamente egli vide ciò che accadeva sulle altre tavole. Su quella più vicina c'era un tartaro, probabilmente un cosacco, a giudicare dalla divisa buttata accanto a lui. 4 soldati lo tenevano. Un dottore con gli occhiali tagliava qualcosa nella sua schiena bruna e muscolosa. Il tartaro pareva grugnire, e ad un tratto, alzando il suo viso nero, camuso, dagli zigomi sporgenti e mostrando i denti bianchi, cominciò a dibattersi, a dimenarsi, a urlare, con uno stridio penetrante e prolungato. Sull'altra tavola, intorno alla quale si affollava molta gente, giaceva supino un uomo grande, pieno, con la testa rigettata indietro. I capelli ondulati, il loro colore e la forma della testa parvero stranamente noti al principe Andrei. Alcuni infermieri premevano sul petto di quell'uomo e lo tenevano fermo. Una gamba bianca era scossa senza posa da frequenti e rapidi movimenti febbrili. Quell'uomo singhiozzava convulsamente e i singhiozzi lo soffocavano. 2 dottori, in silenzio, uno di essi era pallido e tremava, facevano un'operazione sull'altra gamba, che era tutta rossa. Dopo essersela cavata col tartaro, sul quale fu gettato un cappotto, il dottore con gli occhiali, asciugandosi le mani, si avvicinò al principe Andrei. Egli guardò in viso il principe e subito si voltò in là. «Spogliatelo. Perché state fermi?» disse adirato agli infermieri. La più lontana infanzia tornò alla memoria del principe Andrei, mentre l'infermiere, con mani frettolose e dalle maniche rimboccate, gli sbottonava i bottoni e gli toglieva i vestiti. Il dottore si chinò sulla ferita, la tastò e mandò un profondo sospiro. Poi fece segno a qualcuno. E il tormentoso dolore al ventre fece perdere la coscienza al principe Andrei. Quando si riebbe, i frammenti delle ossa spezzate dell'anca erano stati tolti, dei pezzi di carne tagliati e la ferita fasciata. Gli spruzzarono dell'acqua in viso. Appena il principe Andrei aprì gli occhi, il dottore si chinò su di lui, lo baciò silenziosamente sulle labbra e se ne andò in fretta. Dopo la sofferenza che aveva sopportata, il principe Andrei sentì un benessere che da molto tempo non provava. Tutti i momenti migliori e più felici della sua vita, e specialmente la più lontana infanzia, quando lo spogliavano e lo mettevano nel lettino, quando la balia gli cantava la ninna nanna, quando, con la testa affondata nei guanciali, egli si sentiva felice per la sola coscienza di vivere, si presentavano alla sua immaginazione non più come cose passate, ma come realtà. Intorno a quel ferito, di cui era parsa nota al principe Andrei la forma del capo, si affaccendavano i dottori, lo sollevavano e lo calmavano. Si udiva il suo lamento interrotto dai singhiozzi, pieno di spavento e sottomesso alla sofferenza. Mostrarono al ferito la sua gamba tagliata nello stivale coperto di sangue raggrumato. Lui singhiozzò come una donna. Il dottore, che stava davanti al ferito e ne nascondeva il viso, si allontanò e in quell'essere infelice, singhiozzante, senza forze, al quale avevano dianzi tagliato una gamba, il principe Andrei riconobbe Anatol Kuragin. Tenevano in braccio Anatol e gli offrivano dell'acqua in un bicchiere, l'orlo del quale egli non poteva raggiungere con le sue labbra tremanti e gonfie. Anatol singhiozzava penosamente. «Sì, è lui, sì. È quell'uomo che ha avuto non so che legame così prossimo e così doloroso con me», pensava il principe Andrei, senza comprendere ancora chiaramente ciò che aveva davanti. «In che consiste il legame di quell'uomo con la mia infanzia, con la mia vita?» domandava a se stesso, non trovando risposta. E ad un tratto un nuovo, inatteso ricordo del mondo dell'infanzia, della purezza e dell'amore apparve al principe Andrei. Si ricordò di Natascia, come l'aveva vista la prima volta a quel ballo del 1810, col suo collo e le sue braccia sottili, il timido viso felice, pronto all'entusiasmo, e il suo amore e la sua tenerezza per lei gli si ridestarono nell'animo più vivi e più forti che mai. Egli si ricordava adesso il legame che esisteva fra lui e quell'uomo che lo guardava con sguardo appannato, attraverso le lacrime che gli empivano gli occhi gonfi. Il principe Andrei si ricordò tutto, e una pietà, un amore fervente per l'uomo, colmò il suo cuore felice. Il principe Andrei non poté più trattenersi e pianse lacrime di tenerezza e di amore sugli uomini, su se stesso e sui loro e sui propri errori. Compassione. Amore per i fratelli, per chi ci ama, amore per chi ci odia, amore per i nemici, sì, quell'amore che Dio ha predicato sulla terra e che mi insegnava la principessina Maria, e io non comprendevo. Ecco perché rimpiangevo la vita, ecco ciò che ancora mi sarebbe rimasto se fossi vissuto. Ma ora è troppo tardi, lo so. Il terribile aspetto del campo di battaglia, coperto di cadaveri e di feriti, insieme con la testa pesante e la notizia di 20 generali a lui noti, morti o feriti, e la coscienza che il suo braccio, prima così forte, adesso era senza forza, produssero un effetto inatteso su Napoleone, che di solito voleva vedere i morti e i feriti, sperimentando così, per quel che gli pareva, la sua forza d'animo. In fretta lasciò il campo di battaglia e tornò al tumulo di Chevardino. Col viso giallo, gonfio, con gli occhi appannati, col naso rosso e la sua voce rauca, stava pesantemente seduto sulla sua sedia pieghevole, tendendo involontariamente l'orecchio al rombo del cannone, senza alzare gli occhi. Con un'angoscia dolorosa aspettava la fine di quell'azione, di cui si considerava partecipe, ma che non poteva fermare. Il suo personale sentimento umano per un breve istante ebbe il sopravvento su quell'artificiale miraggio di vita che egli aveva servito così a lungo. Riportò a se stesso quelle sofferenze e quella morte che aveva vedute sul campo di battaglia. La pesantezza che sentiva al capo e al petto gli ricordava che anche per lui erano possibili la sofferenza e la morte. In quel momento non avrebbe voluto né Mosca né la vittoria né la gloria. Di che gloria aveva bisogno ancora? La sola cosa che ora desiderasse era il riposo, la tranquillità e la libertà. Su tutta la piana, prima così allegra e bella, con le sue baionette luccicanti e il fumo che si innalzava nel sole mattutino, ora c'era una nebbia umida e fumosa e si sentiva uno strano odore di salnitro e di sangue. Delle nuvolette si erano raccolte e una pioggerella cominciò a cadere sui morti, sui feriti, sugli uomini spaventati, sugli sfiniti e sugli incerti. Pareva che dicesse: «Basta, basta uomini, smettete, rientrate in voi, che fate?» Ma benché già verso la fine della battaglia i soldati sentissero tutto l'orrore della loro azione, benché fossero contenti di smettere, pure una certa incomprensibile e misteriosa forza seguitava a dirigerli e, sudati, coperti di polvere e di sangue, gli artiglieri, rimasti uno su tre, sebbene fossero barcollanti e affannati per la stanchezza, portavano le cariche, caricavano, miravano, accendevano le micce e le palle, egualmente rapide e crudeli, volavano da ambo le parti e straziavano i corpi umani e continuava a compiersi quella terribile opera che si compie non per volontà degli uomini, ma per volontà di colui che dirige gli uomini e i mondi. Chi avesse osservato le disordinate retrovie dell'esercito russo avrebbe detto che i francesi non avevano se non da fare un altro piccolo sforzo e l'esercito russo era sparito. E chi avesse osservato le retrovie dei francesi avrebbe detto che i russi non avevano da fare se non un altro piccolo sforzo e i francesi erano perduti. Ma né i francesi né i russi facevano questo sforzo e il fuoco della battaglia si spegneva lentamente. Non il solo Napoleone provava il sentimento, simile a quello del sogno, dell'impeto veemente della mano che ricadeva senza forza, ma tutti i generali, tutti i soldati dell'esercito francese che avevano o non avevano partecipato al combattimento, dopo tutte le esperienze delle battaglie precedenti, provavano il medesimo sentimento di terrore davanti a quel nemico che, avendo perduto la metà del suo esercito, restava minacciosamente fermo alla fine come al principio della battaglia. La forza morale dell'esercito francese attaccante era esaurita. Non quella vittoria che è data da quei pezzi di stoffa legati a bastoni e chiamati bandiere e dallo spazio occupato prima e dopo dalle truppe, ma la vittoria morale, quella che persuade l'avversario della superiorità morale del suo nemico e della propria impotenza, fu riportata dai russi a Borodino. L'invasione francese, come una bestia infuriata che nella sua corsa ha ricevuto una ferita mortale, sentiva d'esser perduta. Ma non poteva fermarsi, così come l'esercito russo, due volte più debole, non poteva evitarlo. Dopo l'urto ricevuto, l'esercito francese poteva ancora trascinarsi fino a Mosca, ma lì, senza nuovi sforzi da parte dell'esercito russo, esso doveva perire, dissanguato dalla ferita mortale riportata a Borodino. La sera del 26 agosto, Kutuzov e tutto l'esercito russo erano persuasi che la battaglia di Borodino era stata vinta. Kutuzov scrisse appunto così all'imperatore. Ma quella stessa sera e il giorno seguente, una dopo l'altra, giunsero notizie di perdite inaudite, della perdita di metà dell'esercito, e una nuova battaglia parve materialmente impossibile. Era impossibile dare battaglia quando ancora le informazioni non erano state raccolte. Non erano stati portati via i feriti, non erano state integrate le dotazioni di munizioni, non erano stati contati i morti, non erano stati nominati nuovi comandanti al posto degli uccisi e gli uomini non avevano né mangiato né dormito. Ma intanto, subito dopo la battaglia, la mattina seguente, l'esercito francese già si avanzava da sé solo contro l'esercito russo. Kutuzov voleva attaccare il giorno dopo e tutto l'esercito lo voleva, ma per attaccare non basta il desiderio, ci vuole la possibilità di farlo e questa possibilità non c'era. Era impossibile non ritirarsi di una tappa, poi era impossibile non ritirarsi allo stesso modo di una seconda, di una terza tappa, e finalmente il 1° settembre, quando l'esercito fu sotto Mosca, malgrado tutta la forza del sentimento che si sollevava nelle file dell'esercito, la forza delle cose fece sì che queste truppe andassero oltre Mosca, e le truppe si ritirarono ancora di una tappa, l'ultima, e abbandonarono Mosca al nemico. Nell'anima di ogni russo c'era la coscienza che Mosca sarebbe stata presa. I moscoviti partivano, e le prime a partire erano le persone ricche e istruite, le quali sapevano benissimo che Vienna e Berlino erano rimaste intatte e che là, durante l'occupazione di Napoleone, gli abitanti passavano allegramente il tempo con quegli affascinanti francesi che allora in Russia erano tanto amati dagli uomini e specialmente dalle signore. Essi partivano perché per i russi non si poteva porre la questione se si sarebbe vissuti bene o male a Mosca sotto i francesi. Sotto i francesi era impossibile stare, era la cosa peggiore di tutte. Partivano e non pensavano al grandioso significato che aveva quella enorme, ricca capitale abbandonata dagli abitanti e destinata all'incendio. Partivano, ognuno per suo conto. Eppure, soltanto in seguito alla loro partenza, accadde quel grandioso avvenimento che resterà per sempre la gloria migliore del popolo russo. Quella signora, che fin dal mese di giugno era partita da Mosca per la sua campagna di Saratov, coi suoi mori e con le sue buffone, con la vaga coscienza di non voler essere una serva di Bonaparte, compiva semplicemente proprio quella grande opera che salvò la Russia. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.